Mezzo secolo di storia alle spalle e nessun segno di vecchiaia. L'edizione 2012 del Salone del Mobile si apre all'insegna di innovazione, stile e design. L'importanza dei dettagli e l'attenzione per le materie usate sono alcune delle tendenze che caratterizzeranno le produzioni e gli oggetti esposti. Nei padiglioni di Rofiera a Milano sono attesi oltre 300.000 visitatori da 160 paesi. 5 le manifestazioni contemporanee, da cui l'ormai tradizionale plurale i saloni. Il Salone Internazionale del Mobile, Eurocucina, i saloni dedicati al bagno e al complemento d'arredo, infine il Salone Satellite, che compie 15 anni e sarà dedicato a design e tecnologia, con 750 giovani progettisti coinvolti. In tutto gli espositori saranno oltre 2.500 metri quadrati di superficie dedicata a 209.000. Novità di quest'anno l'apertura al pubblico anche nella giornata di sabato, oltre che in quella di domenica. Difficile scegliere i più interessanti fra gli eventi collaterali. Si va dalla Design Dance con i suoi 456 oggetti parlanti all'installazione Libro Cielo, allestita nel cuore della città. Irene Privitera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.